Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sei minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, puntata e giornata economico-finanziaria chiaramente festiva in Italia, non nel resto del mondo, non in Grecia, dove dopo l'abbassamento del voto da parte dell'agenzia di rating Moody's si ragiona su quello che capiterà domani. Domani dovrebbe infatti arrivare un'altra tranche del prestito europeo alla Grecia e soprattutto bisognerà capire qual è il piano di finale, perlomeno finale per ora, di ristrutturazione del debito e privatizzazione che la Grecia presenterà ai paesi europei. Questo per quello che riguarda il fronte internazionale. Sul fronte italiano parleremo di calcio, ma non per lo scandalo scommesse, ma per i conti delle squadre di calcio. Conti, come ha scoperto Sole 24 Ore, anche oggi ancora in rosso. E per quello che invece riguarda l'apertura del programma, ci occuperemo di un tema che probabilmente ci renderà poco simpatici a molti. Mi riferisco al tema degli ordini professionali, un tema che più volte abbiamo annunciato, un paese che secondo alcuni è bloccato da un eccesso di ordine corporativismo soprattutto. Sapete qual è la posizione di questo programma, pur facendo parte anche sottoscritto di un ordine professionale, ed è che insomma da questo punto di vista gli ordini siano qualcosa di arcaico, non di obiettivamente moderno, soprattutto quando limitano la liberalizzazione di un settore, limitano la concorrenza e l'accesso in un settore. Comunque, per essere corretti, presenteremo un libro che è un pamphlet di critica forte agli ordini professionali. E io cercherò anche di fare l'avvocato del diavolo, quindi difendere gli ordini professionali. 349-238-6666 per i vostri sms. Le altre cose di cui tratteremo, la guida del Sole 24 Ore in edicola domani, dedicata alla privacy, e non solo, perché da questo punto di vista ci occuperemo anche di alcune dichiarazioni arrivate oggi, sempre a livello internazionale. Però, come sempre, innanzitutto le notizie in breve. Le notizie che riguardano da un lato il mercato dell'oro: sale a $1,543 in Asia, il petrolio invece in leggero calo, si riposiziona a $100 il barile. Sul nucleare, il sì della Cassazione dà un riconoscimento alla democrazia, l'ho detto oggi infatti il segretario della CGIL Susanna Camusso a margine del comizio conclusivo della manifestazione per il 2 giugno a Milano. Sentiamola al microfono del collega del Radio Cori Sole 24 Ore, Fernando Mancini. Da un riconoscimento alla democrazia, che vuole che quando i cittadini raccolgano le firme per un referendum ci sia il diritto di votare. Dopodiché credo che è importante il tema del nucleare, ma grande importanza anche il tema dell'acqua. E quello che sta succedendo negli ultimi giorni significa che i cittadini e la Repubblica stanno scoprendo di nuovo il ruolo dei lavoratori in Italia? Ma guarda, è evidente che nel voto di questo periodo c'è il ritorno alla richiesta di occuparsi delle cose concrete, di occuparsi del lavoro, dei servizi, delle condizioni materiali delle persone. Non se ne poteva più di parlare d'altro. Torniamo invece all'economia internazionale. Il tasso di produttività americana nei primi tre mesi dell'anno cresce dell'1,8%, un po' più rispetto alle attese, un po' più alto rispetto alle attese. Cala anche il numero di richieste di sussidi di disoccupazione. E poi una nuova tegola per la banca d'affari americana Goldman Sachs, che avrebbe ricevuto dal procuratore distrettuale di Manhattan la richiesta per ottenere informazioni sulle pratiche della banca per il modo in cui ha concesso crediti durante la crisi. Lo riporta l'agenzia Bloomberg. Sostanzialmente vogliono investigare le autorità americane sul modo in cui Goldman Sachs ha concesso questi crediti, in primo luogo mutui ma non solo, per capire se fosse consapevole della potenziale insolvenza delle persone a cui li concedeva. Ricordo che Goldman Sachs ha ricevuto 10 miliardi di dollari sotto forma di aiuti diretti dal governo americano, tutti restituiti, ma ha anche beneficiato del salvataggio da 70 miliardi di dollari del colosso assicurativo AIG, verso cui era fortemente esposto. L'agenzia di rating Moody's non ha messo sotto osservazione solo il debito di alcuni paesi, ma ha anche messo sotto osservazione il rating, il voto della Bank of America, di Citigroup e di Wells Fargo, tre colossi bancari americani, lasciando intravedere un possibile abbassamento del voto. Moody's è sotto attacco adesso da parte della Grecia, perché ieri in serata ha tagliato il voto della Grecia, portandolo sostanzialmente da B1 a CAA1. Praticamente è cresciuto, secondo Moody's, il rischio che la Grecia possa perdere il controllo del suo debito alla luce delle difficoltà crescenti che il governo deve affrontare nell'attuare i tagli promessi e le privatizzazioni annunciate. Atene ha risposto oggi dicendo che l'azione di Moody's è stata dettata non da dati concreti ma solo da voci. E intanto però l'interesse sui titoli greci a due anni è volato al 24,6%. La differenza invece quanto rende un BTP a 10 anni greco è ormai rende il 16%, e la differenza tra quanto rende corrispettiva obbligazione tedesca è di 13 punti, 1.326 punti, il 13%. E in questo modo sono saliti anche i rendimenti delle obbligazioni spagnole a tre anni al 4%, ormai il rendimento delle obbligazioni spagnole a tre anni contro il 3,5% precedentemente offerto. Ma Zapatero ha fatto sapere che centrerà l'obiettivo di bilancio, ossia portare il deficit al 6% nel 2011, e non avrà bisogno di aiuti la Spagna. Buona notizia invece, veniamo all'Italia, che è arrivata poco fa e ve l'hanno già raccontato i nostri GR. Il sommerso in Italia vale 275 miliardi di euro, da un minimo di 255 a un massimo di 275 miliardi, ed è dovuto per il 40% questo sommerso al lavoro in nero, al lavoro non regolare. Tra l'altro questo è sostanzialmente il rapporto finale di uno dei gruppi di lavoro sulla riforma fiscale voluta dal Ministero dell'Economia. I gruppi sono quattro e sono diretti da Enrico Giovannini, presidente dell'ISTAT, da Vieri Ceriani della Banca d'Italia e già collaboratore di Visco, da Piero Giarda e Mauro Mare. L'evasione media degli italiani si è attestata nel 2010 al 13,5% del reddito dichiarato. Mediamente gli italiani non hanno dichiarato al fisco 2.000 euro a contribuente. Non tutti però evadono nello stesso modo. La differenza è di 2.900 euro al centro, al nord di 2.500, più bassa al sud, 950 euro in non dichiarato. Si parla di redditi IRPEF evasi a testa. L'evasione è al 56% per gli autonomi e all'83% sugli immobili. I pensionati versano invece il 7,7% in più. E poi i lavoratori irregolari, che stanno arrivando alla cifra iperbolica di 3 milioni di persone, 2 milioni 966 mila persone. Vedo già molti messaggi sul calcio, era sul Sole 24 Ore di oggi, ne parleremo più avanti. Una ricerca Arel e PricewaterhouseCoopers sui conti dei club italiani. In tre anni praticamente le società di calcio hanno bruciato complessivamente 1 miliardo di euro, considerando le società di Serie A, di Serie B e di Lega Pro. Cioè, queste sono le perdite complessive delle società calcistiche. Praticamente in Serie A ormai da 2 stagioni i costi strutturali superano i ricavi di 180 milioni di euro l'anno. Qualunque azienda chiuderebbe in queste condizioni. E poi viene anche sottolineato nell'inchiesta del Sole 24 Ore come la linea dei ricavi, che ormai ammonta a 2 miliardi e mezzo, non può crescere ulteriormente a meno che non si costruiscono stadi di proprietà. Per cui, senza stadi di proprietà, i ricavi del calcio resteranno fermi a 2 miliardi e mezzo. Pensate che su questi 2 miliardi e mezzo pesano comunque per 1 miliardo e mezzo gli ingaggi dei calciatori. E il costo del lavoro, chiamiamolo così, perché è un lavoro anche quello, ci mancherebbe, quello del calciatore, è il più alto fra le top league europee, quindi fra le Serie A europee. Chiudiamo le notizie in breve prima di passare alla borsa con una buona notizia. Dopo 10 anni torna il volo diretto tra Roma e Pechino. Arriverà a Pechino la prossima settimana l'amministratore legato di Alitalia, Rocco Sabelli. Questa mattina si è svolta comunque la cerimonia presso l'aeroporto di Pechino per salutare appunto la ripresa del collegamento aereo di Alitalia tra Roma e Pechino, e speriamo che anche questo serva al nostro export e ai rapporti commerciali con la più forte economia quanto a tasso di crescita del mondo, che è quella cinese. Adesso la borsa, un rapidissimo aggiornamento, giornata un po' fiacca in Italia, nel resto d'Europa invece non si festeggia, tutto aperto. Francoforte perde l'1,57%, Parigi perde l'1,55%, Londra perde lo 0,90%, Milano cede solo lo 0,5%, nel caso specifico perde UbiBanca il 5%, e ancora vediamo il 5,12% UbiBanca, scusatemi. ST Microelectronics meno 2,5%, Monte dei Paschi meno 2,1%, Fiat meno 2%, e ancora Buzzi Unice meno 1,60%, Pirelli perde il 2%, Eni l'1,40%, Exor l'1,40%, Popolare di Milano meno 1,30%, come Mediobanca. Chi va bene oggi? Vanno bene Unicredito più 0,60%, A2A più 0,50%, Enel più 0,34%, Euro a quota 1,44,20. E allora, dicevo, facciamoci un po' di nemici, probabilmente, colleghi giornalisti che aderiscono all'Ordine e lo sostengono, farmacisti, notai, avvocati. Parliamo infatti del peso degli ordini professionali in questo paese, un peso che vi dico subito, perché poi mi toccherà fare l'avvocato del diavolo, l'avvocato della controparte, un peso che è andato via via aumentando, e stando anche a alcuni disegni di legge potrebbe aumentare ulteriormente, perché ci sono sempre nuove professioni che chiedono di avere un albo e di avere un ordine, di avere dei vincoli all'accesso. 349-238-6666 per i vostri sms. Stiamo parlando di oltre 2 milioni di professionisti iscritti a un ordine o a un collegio in Italia. Ma la cosa incredibile, visto che è anni che si dice gli ordini dovrebbero essere riformati, dovrebbero servire ad altro, non dovrebbero vincolare l'accesso, vincolare le tariffe, vincolare la concorrenza, beh, pensate che negli ultimi 10 anni gli iscritti agli ordini sono saliti del 70%, altro che ridurre il loro peso. E valgono gli iscritti agli ordini professionali circa il 12% del PIL. Allora, poi c'è ordine, per carità, è ovvio che i medici, chirurghi e odontoiatri abbiano un ordine, che dovrebbe anche, io ricordo che nelle funzioni dell'ordine c'è anche la censura, il controllo, la sospensione, l'espulsione, non sempre avviene. Comunque l'ordine con più iscritti è quello dei medici, chirurghi e odontoiatri, 393.000, seguono gli avvocati 230.000, gli architetti 138.000, i commercialisti, ragionieri contabili 109.000, i geometri 95.000, i giornalisti 91.000, gli psicologi 72.000. Poi a seguire ingegneri, periti industriali, periti agrari, consulenti del lavoro, farmacisti, geologi, assistenti sociali, biologi, tecnologi alimentari, notai, 4.600 iscritti. E poi no, il tema degli ordini, perché permetterebbero l'accesso alla professione attraverso il praticantato, un controllo di chi entra e quindi una selezione. Sì, peccato che in una recente indagine condotta tra i praticanti, avvocati e architetti ha dimostrato come oltre la metà, il 54%, lavori praticamente gratis, nonostante sia un impegno a tempo pieno. Solo il 35% degli intervistati lo ha ritenuto utile per inserirsi nel mondo del lavoro, per il 46% è un obbligo, perché tale è, sei obbligato a farlo se vuoi diventarlo. E questa pratica, fatemi fare un gioco di parole, di usare il praticante per avere un servizio a costo zero è obiettivamente insopportabile. Poi veniamo alle liberalizzazioni. Bersani nel 2006 abolì le tariffe minime per gli avvocati, ma anche per i notai, per gli architetti, gli ingegneri, quindi uno era libero di applicare al cliente qualsiasi sconto volesse e di concordare anche parcelle parametrate al raggiungimento degli obiettivi. Veniva abolito il divieto di pubblicità, veniva creata la possibilità di avere studi multifunzioni, cioè un notaio, un avvocato e un commercialista. E le novità avrebbero, secondo uno studio, portato risparmi per 100 euro a famiglia all'anno. La controriforma è in atto, lo ha denunciato anche la Confindustria più volte, anche la stessa presidente Marcegaglia nel suo ultimo intervento all'Assemblea Nazionale di Confindustria. Gli avvocati hanno ottenuto la reintroduzione delle tariffe minime e regole più severe per l'accesso alla professione e il riconoscimento di un rimborso forfettario per i praticanti. Adesso gli avvocati si battono contro la conciliazione obbligatoria che prevedeva, per alleggerire il lavoro dei tribunali, un tentativo di mediare preliminarmente per le controversie che riguardano, per esempio, eredità, locazioni, diffamazione, contratti bancari e assicurativi, risarcimento danni, cioè tutte cose che in via prioritaria si cercava di risolvere fuori dai tribunali. Gli avvocati sono contrari, non è difficile capire perché, e anche perché il mediatore non doveva essere necessariamente un avvocato, poteva essere anche un commercialista. Riccardo Cappello, buonasera. Buonasera. Lei che lavoro fa? Io l'avvocato. Ecco, l'avvocato, benissimo. Lei fa l'avvocato e ha scritto un libro che si chiama Il Cappio. Noi in queste giornate festive o semifestive siamo abituati a portare anche dei libri, da questo nasce anche la riflessione. Il Cappio, casa editrice Rubettino, perché gli ordini professionali soffocano l'economia italiana. Abbiamo preparato un pezzo, un brano del suo libro, un po' lungo, ma volutamente lungo, perché abbiamo tenuto assieme gli ordini dei giornalisti, gli ordini dei farmacisti, gli ordini dei notai. Poi veniamo invece alle prospettive future, ossia di ancora maggior numero di ordini professionali. I giornalisti italiani sono quasi gli unici al mondo a essere organizzati in un ordine obbligatorio e costituito per legge, con obblighi e diritti che ne fanno quasi soggetti pubblici. Le loro regole deontologiche sono fissate da una legge e tutto ciò che riguarda il loro ordinamento è soggetto a controllo pubblico. Non a caso l'ordine era stato istituito dal regime fascista con l'obiettivo di controllare i giornalisti in maniera da chiudere ogni varco alla libertà di stampa, dopo essere intervenuto duramente anche sul versante editoriale. Dopo la guerra nel 1963, a seguito di un ampio dibattito che aveva visto molti interventi contrari, e tra questi quello particolarmente autorevole di Luigi Einaudi, fu deciso di mantenere l'ordine riformulandone la struttura e le finalità e democratizzandone gli organi direttivi. Legge 689 del 1963. Negli altri paesi la professione giornalistica è totalmente libera e il riconoscimento della funzione è legato a criteri oggettivi non discrezionali, in base ai quali le pubbliche amministrazioni lo certificano. Il titolo è legato alle capacità personali e all'esperienza acquisita, e anche se si può accedere attraverso la frequenza non obbligatoria di corsi, gli editori sono liberi di assumere tenendo conto solo dell'effettiva capacità. In Italia la situazione è paradossale. L'aspirante giornalista deve sostenere un esame di ammissione all'albo, previo praticantato presso una redazione o la frequenza di una scuola biennale di giornalismo, ma gli editori sono liberi di assumere chi vogliono. Nonostante la legge inglese da anni consenta la vendita dei medicinali anche online, in Italia restano ancora tutti gli antichi privilegi feudali e per l'apertura di nuove farmacie viene utilizzato un criterio rapportato all'effettiva consistenza della popolazione, una farmacia ogni tot abitanti. dagli speciali del 1910, dotati di una griglia protettiva sul territorio chiamata pianta organica, è cambiato poco, anche se ormai il farmacista si limita a tenere i registri per il controllo delle sostanze stupefacenti, ad assistere psicologicamente il cliente ansioso e a consegnargli il medicinale prescritto nella ricetta, verificando, come un qualsiasi alimentarista, che il prodotto non sia scaduto. I rigorosi controlli, indispensabili quando ai farmacisti era riservato il delicato compito di produrre i medicinali, sono inutili oggi che i farmaci vengono prodotti industrialmente. I vincoli restano anche se ormai, approfittando della credibilità conferita per legge, la farmacia vende anche prodotti che con i medicinali hanno poco a che vedere. Come la corporazione dei lanaioli nella Firenze di Dante, nell'Italia di oggi i titolari di farmacia operano attraverso una convenzione con la regione che garantisce un margine di guadagno fissato per legge. Non solo, essi, attraverso un ingegnoso meccanismo, operano come punti vendita fornendo gratuitamente ai portatori di ricetta i medicinali al cui pagamento provvederà la regione. Naturalmente la distribuzione per conto nasce per offrire un servizio più vicino ai cittadini, ma mentre la regione, ente pubblico e acquirente di grandi quantitativi di medicinali, ottiene in media uno sconto del 55%, essa li concede alle farmacie, che in pratica prestano il punto distributivo, riconoscendo loro un aggio del 12%, calcolato non sul prezzo d'acquisto, ma sul prezzo pieno visibile sulla fustella, che corrisponde a circa il 30%. Quindi l'onere è solo della regione e i farmacisti percepiscono gli utili senza rischi, cioè una rendita. Non solo, la licenza è trasmissibile in linea dinastica. È ancora vigente la norma secondo cui, in caso di decesso del farmacista titolare, il coniuge o gli eredi possono mantenere il diritto di gestione fino al compimento del 30° anno di età o per i 10 anni se entro un anno si iscrivono ad una facoltà di farmacia. Anche i notai, ordine cui fanno capo i professionisti che guadagnano di più, godono di esclusive in virtù della qualifica di pubblico ufficiale attribuita per legge, che consente loro, soggetti privati, di svolgere funzioni pubblicistiche nell'interesse di un cliente che di questa tutela non si accorge pur pagandone il prezzo. Il notaio, infatti, offre un servizio che potrebbe essere svolto da altri professionisti, dagli uffici comunali, dalle cancellerie dei tribunali o dai pubblici uffici attraverso l'autocertificazione, e le loro esclusive non presentano alcun vantaggio per l'interesse pubblico generale e per gli utenti costretti ad affrontare difficoltà e spese anche per l'autentica di una firma. Anche questo settore è interamente e completamente gestito dalla categoria, che decide essa stessa chi sia in grado e fino a quando di farne parte, mentre i fruitori delle prestazioni sono trattati come minus habens e gestiti in modo paternalistico. Allora, immagino che il gradimento del sottoscritto di questo programma verso l'ordine degli avvocati, dei notai, dei farmacisti, anche dei giornalisti, salirà alle stelle. Alcuni di voi si ricordano ancora l'intervista col presidente degli ordini avvocati Alpa, che mise giù il telefono seccato per le domande che gli facevamo. Comunque, mi faccia difendere gli ordini professionali, così facciamo un ragionamento a due, cappello. Gli ordini nascono perché in alcuni settori ritenuti delicati, appunto quelli che abbiamo citato, ma anche quelli che abbiamo citato prima del passaggio del suo libro, si ritiene che ci debba essere un controllo su chi accede, su chi vende un farmaco, su chi scrive, su chi l'assiste legalmente, su chi mette il timbro a un atto, diciamo, di compravendita immobiliare. E in questo modo si riesce a regolare la professione e anche a controllare la professione. Hanno sempre gli ordini la possibilità di censura, sospensione o radiazione. Cosa obietta lei? Ma guardi, che all'inizio hanno avuto una funzione molto importante. Oggi questa funzione non vogliono rassegnarsi a perderla e non vogliono rassegnarsi a cambiare, seguendo quelle che sono le modalità di esercizio dei nuovi tempi. Cioè, non è ammissibile che nel 2011 si vada raccontando ai cittadini che un numero limitato di notai viene fatto nel loro interesse, o che un numero limitato di farmacie, il fatto di dover fare chilometri per trovare un'aspirina, possa essere considerato un vantaggio per il cittadino. Si spaccia come interesse pubblico quello che è l'interesse di una categoria di mantenere un reddito. Lei pensi che, secondo me, quella che è il problema della semplificazione, della sburocratizzazione, della velocizzazione della giustizia, è un problema irrisolvibile in presenza degli ordini che si oppongono a tutto quello che può servire a snellire le procedure burocratiche. Cioè, i commercialisti contestano lo sportello unico delle imprese perché accelererebbe i tempi delle imprese ma sottrarrebbe il loro lavoro. Gli avvocati contestano la mediazione obbligatoria. Perché? Perché le lungaggini della giustizia, come potrebbero far immaginare la modalità stessa di come sono articolate le tariffe, sottrarrebbe loro del lavoro. Si oppongono all'accorpamento dei tribunali minori, cioè tutte quelle caratteristiche che possono agevolare le vite dei cittadini vengono ostacolate dagli ordini quando sottraggono il lavoro. La verità è che lo spirito corporativo prevale sullo spirito sociale, cioè ognuno fa gli interessi della sua corporazione e dei suoi iscritti ai danni dei cittadini, quindi va cercando occasioni di lavoro, non per migliorare il sistema, ma per sfruttarlo. Oddio, il sospetto che una riforma chiesta dal governatore della Banca d'Italia, ha detto Draghi, quasi 2 punti di PIL, sburocratizzazione anche della giustizia, chiesta dalla presidenza del Confindustria, quindi da Emma Marcegaglia, il sospetto che la riforma della giustizia, quella che interessa ai cittadini, cioè quella civile, non quella penale solo, ma quella civile, non venga fatta perché sarebbe come chiedere a un Parlamento in cui gli avvocati sono in maggioranza, sarebbe come chiedere, dicevo, al tacchino di anticipare il Natale, noi ci abbiamo sempre avuto. Cioè che quelli sono anche, più la giustizia è complicata e lenta, più l'avvocato ci guadagna. Mi dispiace dirlo in maniera così tranchant, ma questo è il sospetto. E dopo le informazioni sul meteo e la pubblicità, vorrei però capire cosa pensare di un'obiezione che riceviamo anche in questo momento al 349-238-6666. Ma insomma, lei, le chiedono alcuni ascoltatori, lei andrebbe a comprare casa da un geometra anziché da un notaio? Senza ordini in Italia sarebbe 1000 volte peggio. Mi dia subito una risposta e poi le altre domande le faccio dopo. Perché, chiaramente, perché tutto il sistema che è fatto per favorire gli ordini è fatto dagli ordini a loro immagine e somiglianza. Perché negli altri paesi si può comprare dal commercialista? Perché lo Stato non è in grado di fare delle cose. Le delega delle corporazioni in cambio del presunto consenso che le corporazioni gli danno. Cioè le corporazioni gli garantiscono il supporto politico e lo Stato e i politici tengono l'arma legislativa puntata per ricattarlo. Quindi in questo sistema non c'è dubbio che non si possa uscirne se non con una riforma drastica, perché gli ordini sembrano fortissimi ma sono molto fragili. Cioè è difficilissimo stare a spiegare alla gente che è suo interesse, è sua convenienza mantenere le tariffe minime o che il numero ridotto dei professionisti in un certo mercato sia fatto nell'interesse del cittadino. Io faccio notare che il governo, io faccio notare che l'allora governo Prodi raggiunse il massimo mai più toccato poi consenso nell'opinione pubblica proprio con le lenzuolate di Bersani, perché in realtà lei ha ragione, al di là di chi fa parte di questi ordini, incluso l'ordine dei giornalisti, vediamo se poi l'ordine mi riprenderà per questa puntata, tutti gli altri, e anche il giornalista quando deve andare in farmacia o il farmacista quando deve andare dal notaio, sono contrari, diciamo, e capiscono i vincoli dell'ordine dell'altro. Il problema è che è sempre l'ordine degli altri professionisti ad essere messo in discussione. Vedo molti che chiedono sulle farmacie perché hanno orari così rigidi, e la legge Bersani introduceva la possibilità di comprare i farmaci da banco con un farmacista, un orario di farmacia, anche al supermercato. Sono d'accordo, voglio dire, per comprare una aspirina uno non può girare mezza città guardando sul cartellino qual è la farmacia di turno aperta. Abbiate pazienza, si sta comprando un'aspirina e non c'è nessun presidio sanitario sull'aspirina o sul Moment quando vai in farmacia. Non si è mai visto un farmacista chiedetemi mi scusi quante aspirine ha preso oggi, non esiste, per cui sono veramente rendite di posizione. Comunque in questa puntata, ripeto, in cui ci faremo molti amici, torniamo a parlare degli ordini professionali dopo il metodo e la pubblicità. 349-238-6666 per i vostri sms. Nel frattempo la borsa ha chiuso con un calo a Milano inferiore a quello delle altre borse europee, meno 0,80%. Meteo. 17:39 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, Riccardo Cappello, autore del libro Il Cappio, perché gli ordini professionali soffocano l'economia italiana. Alcune obiezioni che arrivano dagli ascoltatori. Cioè, un conto è dire che gli ordini bloccano la libera concorrenza e quindi creano situazioni di rendita, e dove non c'è concorrenza ci sono prezzi più alti. Su questo non ci sono dubbi. Vale per l'energia come vale per le farmacie. Altra cosa però, scrivono molti ascoltatori, ma insomma l'ordine dei medici, l'ordine e altri degli architetti, insomma serve anche a sancire che tu hai passato un esame, sei obiettivamente un architetto, un ingegnere, un medico, ho questa fiducia in più, e tra l'altro l'ordine dovrebbe controllare anche l'aspetto deontologico, quindi se fai cose deontologicamente non accettate vieni sospeso, censurato, sospeso oppure espulso. Scrivono, ma insomma, se non ci fosse l'ordine dei medici, uno potrebbe fare il medico così, semplicemente con laurea in medicina. È questo che lei immagina? No, io immagino che ci siano dei controlli all'accesso, ma devono essere pubblici, non devono essere delegati alla stessa corporazione a cui deve accedere il candidato. Cioè un ordine deve essere aperto. Ci sono. Mi faccia un esempio così capisco anch'io. L'ordine dei medici o l'ordine degli ingegneri? È obbligatorio l'esame di accesso. Non è obbligatorio l'iscrizione ad alcun albo. Poi l'iscrizione all'albo dovrebbe essere commisurata alla professionalità. Cioè tu devi entrare e essere iscritto all'albo dopo che hai dimostrato di essere capace. Non devi entrare in un albo con un esame gestito dagli avvocati, con la deontologia gestita dagli avvocati, con la permanenza nell'albo decisa dagli avvocati, con i crediti formativi stabiliti dagli avvocati, cioè con la deontologia stabilita dagli avvocati, che poi la deontologia è molto più stringente del giudizio civile, perché la decisione di radiare dall'albo è immediatamente esecutivo, mentre la sentenza civile arriva dopo anni. Allora tutto questo significa chiudere un settore delegandolo completamente alla stessa categoria di appartenenza. Cioè, ho capito, sì, lei dice non si può si autogiudicano gli ordini, esatto. Però sì, allora facciamo un esempio pratico. Vada. Per stare nell'ordine degli avvocati di Roma ci vogliono 60 crediti formativi, erano 90 ma credo siano scesi a 60. L'ordine di Roma ne ha attribuiti 16 a chi partecipava ai due giorni del congresso nazionale forense di Roma. Allora a questo punto, mentre se io partecipo a un corso di perfezionamento a Oxford non vale neanche un punto. Allora lei capisce che questa discrezionalità significa avere mano libera su e controllare un intero settore dell'economia. E invece, secondo me, bisogna smantellare l'intreccio. Sì, no, a me interessa, interessa l'economia. Sì, se guardi, su questo siamo d'accordo. A me interessa però che ci sia anche un esame e un controllo. Ma su alcuni controllo c'è, ma deve essere fatto da un esame, sì, su non alcuni da avvocati. Sì, non gestito dagli avvocati, perché noi dobbiamo dare un esempio di credibilità, e la credibilità, guardi, nel sistema inglese la credibilità non viene sicuramente data da un ordine che è ente pubblico, la credibilità la può dare anche un organismo privato gestito privatisticamente, dove io posso iscrivermi ad associazioni diverse che si distinguono fra loro secondo la professionalità che richiedono agli iscritti per essere ammessi. No, ho capito, lei sta, mi scusi, no, mi faccia parlare, Cappello, mi faccia parlare. Lei dice, insomma, l'autoreferenzialità non è garanzia. Devo dire che molti ordini sono stati anche molto invece corretti e immediati nel sanzionare alcuni iscritti. Devo dire che è vero quello che scrivono alcuni ascoltatori, un conto è stabilire se uno può fare il medico, un conto è stabilire se uno può fare il giornalista, lo dico con massimo rispetto per i miei colleghi, ma certo, insomma, se scrivi male o non capisci le notizie, di solito vieni espulso dal mercato in qualche modo, ossia non ti assume. Se il medico sbaglia una diagnosi, i danni obiettivamente sono più alti rispetto a un errore di ortografia o una notizia non capita da parte di un giornalista. Detto questo, lei dice diamo un esame di ammissione, che però non sia l'esame di ammissione deciso dall'ordine stesso, e sono d'accordo. Uno, un ascoltatore mi chiede se io sarei contento di rinunciare al mio tesserino rosso, che non è rosso, è Bordeaux. Comunque, da giornalista, guardi, io quando lavoravo a Londra non avevo nessun tesserino, semplicemente lavorando come giornalista per un gruppo editoriale, avevo un tesserino che diceva, che ti lasciava il datore di lavoro, che diceva sei un giornalista assunto lì, cioè, ma senza aver fatto nessun esame, niente, mai fatto un esame in Inghilterra, mai fatto un corso in Inghilterra, mai dimostrato di dover fare per 2 anni praticante. Cioè, uno, se viene assunto come giornalista, si becca un tesserino da giornalista. Non mi sembra così complicato. Cappello, è vero, avevo preparato un'altra scheda del suo libro, non posso mandare in onda, è vero che stanno invece che diminuendo, proliferando le richieste di ordini di aprire nuovi ordini professionali? Mi fa qualche esempio? I preparatori scientifici del farmaco, gli informatori scientifici del farmaco, che è un ordine che c'è solo in Tunisia, che dovrebbe spiegare al medico a che cosa serve un farmaco. Lei comprende che c'è questo meccanismo, perché l'economia è un tutto unico di parti funzionalmente collegate, stia attento. Non sono cose diverse l'una dall'altra. Cioè qui il meccanismo perverso che condanna tutti a un'appartenenza, quindi tu devi avere un tesserino, ma non è detto che gli avvocati, che gli giornalisti inglesi siano peggiori di quelli italiani, perché quelli italiani c'hanno il tesserino e quelli inglesi no. Questo lei l'avrà riscontrato. A me no, anche perché, come lei ricorda bene, lo ricordo anche nella scheda, un conto è avere il tesserino da giornalista, un conto è lavorare come giornalista, perché tu puoi avere il tesserino quanto vuoi e non avere lavoro. È chiaro che la selezione in un mondo corretto, in un mondo correttamente meritocratico e competitivo, la fa il datore di lavoro, dice tu, secondo me sei bravo e ti assumo, tu tesserino o non tesserino non sei bravo e non ti assumo, poi se sei raccomandato quant'altro, quello si assume la responsabilità del privato. No, io cito alcuni esempi perché ce ne sono, mi dispiace infatti non poter mandare quella scheda che avevamo preparato, di divertentissimi. Oltre al disegno di legge per istituire l'albo degli informatori scientifici del farmaco, di cui obiettivamente si sentiva la mancanza, anche le agenzie di detective privati hanno chiesto l'albo e l'ordine, in questo momento necessitano solo di una licenza prefettizia, uno tesserino anche per gli 007, lo hanno chiesto anche 007 privati, l'associazione addetti ai servizi condominiali e di fabbricato chiede una scuola per diventare portieri e un'attestazione prefettizia, una certificazione antimafia e che ci siano in strutture preposte corsi antincendio con la Croce Rossa, la Polizia e i Vigili del Fuoco. Poi hanno chiesto un albo e un tesserino anche i gestori di stabilimenti balneari, che sappiamo come funziona con le licenze nel mondo balneare, un po' come nelle farmacie, se le passano di padre in figlio, e l'Associazione Italiana Sommelier vuole un albo e un tesserino e un ordine anch'essa. Secondo me, se andiamo avanti, ma dimenticavo la chicca più bella, i gondolieri di Venezia hanno un albo, un ordine e un codice etico, che non si capisce quale sia obiettivamente visti i prezzi, comunque è un numero rigidamente chiuso, qui sta l'inghippo, attenzione negli ordini, gestiscono un servizio di trasporto pubblico e ovviamente applicano tariffe fisse e predeterminate in modo da garantirsi un reddito certo. Pensate, anche i gondolieri hanno il loro albo. E secondo me rischiamo di finire come in un passaggio di un famoso film che ogni tanto usiamo quando parliamo di liberalizzazioni. Hey! Chi siete? Siamo due che... Cosa fate? Cosa portate? Niente, roba... Sì, ma quanti siete? Due, siamo io e lui, dietro non c'è... Un fiorino. Si paga. Un fiorino. Scusi il sacco, doganiere. Chi siete? Quello che è passato adesso col carro, c'è caduto il sacco qua. Cosa portate? Niente, quello di... ma siamo passati proprio adesso. Siamo qua e è caduto il sacco. Sì, ma quanti siete? Uno. Adesso, eravamo due quando siamo passati, ma uno vado a prendere il sacco. Un fiorino. Grazie. Chi siete? Quelli di prima sono venuti a prendere il sacco. Cosa portate? Porto... olive, caciotte, pane, un po' di... Sì, ma quanti siete? Uno, io sono entrato e sono uscendo, no? Un fiorino. C'è uno entra e esce, sbaglia sempre un fiorino. Siamo due, tre, sempre. Grazie, arrivederci. Senta. Ehi! Chi siete? Ma d'acqua! Cosa portate? No, Numero uno, non ci resta che piangere. Massimo Troisi, Roberto Benigni, le è piaciuta Cappello? Finiremo così? Sì. Molto bello. Senta, volevo dire una cosa. Rapidissimo, perché sono in ritardo con il traffico. Io sono attaccato a questa professione. Con 230.000 avvocati, perché importiamo consulenza legale dall'estero e non esportiamo avvocati? Perché lei dice gli ordini non garantiscono merito e competenza, altrimenti dovremmo esportare avvocati, farmacisti, giornalisti, ingegneri, quant'altro. Medici, noi i medici li esportiamo, purtroppo sono quelli che fuggono perché non trovano il merito dentro l'Italia, per i baroni, questo è un altro tema. Sul merito, comunque attenzione, chi scrive il merito purtroppo si lega al tema degli ordini professionali, degli albi, delle palizzate, dei fortini chiusi, perché laddove l'autoreferenzialità è così alta è difficile che passi in merito, passa più il giudizio corporativo. Grazie a Riccardo Cappello, il Cappio, perché gli ordini professionali soffocano l'economia italiana. Rubettino, casa editrice, meno male che non ho bisogno in questo periodo di avvocati, di notai e forse spero anche di farmacisti e medici. Il traffico. Possiamo continuare sugli ordini professionali? Vedo che c'è più di un farmacista, avvocato, notaio in ascolto a giudicare alcune domande. Siamo tutti d'accordo che su alcune professioni serve un esame d'ingresso. Il tema è se l'esame lo devono fare gli ordini stessi o non dovrebbe essere un esame di Stato, un'abilitazione di Stato. Attenzione che gli ordini, come ci sono in Italia, ci sono solo in Italia e in pochissimi altri paesi, e se i presidenti dei vari ordini avessero mostrato un po' più di lungimiranza, aprendo e non alzando le barriere, non chiedendo subito al governo Berlusconi di tornare al pre-Bersani, forse sarebbero più credibili. La borsa. Borsa negativa anche a Milano, meno 0,80%, peggio fa però Parigi, meno 1,80%, Francoforte, meno 2%, Londra, meno 1,36%. E dire che i cali ci sono, di nuovo settore bancario, UbiBanca meno 5,30%, Guido Maurino, buonasera. Buonasera. Radio Corriere sulle 24 ore, partiamo da UbiBanca. Allora, per quello che riguarda UbiBanca, oggi in forte arretramento a Piazza Affari, dopo aver comunicato di aver fissato il prezzo dell'aumento di capitale da 1 miliardo, un prezzo che sarà a sconto del 22,43% rispetto al prezzo teorico che considera anche il prezzo del diritto relativo all'aumento di capitale. Quindi insomma, spesso su operazioni di aumento di capitale vediamo i titoli scendere molto e questo è uno di quei casi. Ancora Estimac Electronics meno 2,80%, immagino sia l'effetto ancora Nokia, e Fiat meno 2,30%, più strano l'effetto Fiat perché il gruppo ieri non è andato bene come marchio, però in sostanza il mercato è un po' recuperato, Alfa Romeo è andata bene. Sì, c'era stata una ripresa sulle immatricolazioni in Italia, era ripreso tutto il mercato che era salito del 3,58%, in questo mercato il gruppo Fiat, quindi compreso anche i marchi Lancia e Alfa Romeo, aveva fatto più 4,6%, quindi aveva fatto meglio, aveva recuperato quote di mercato, però diciamo, gli esperti sottolineano come sia un mercato dell'auto ancora debole, anche guardando agli ordini questo diventa evidente, gli ordini sono ancora molto bassi e fanno presagire per giugno un nuovo calo delle immatricolazioni. Semplicemente il fatto che ci sono attese negative per giugno, per cui oggi il settore europeo dell'auto ha registrato forti flessioni e anche Fiat ha subito un po' questo trend. Andiamo avanti. Oggi il mondo bancario ha avuto UbiBanca in flessione, tu hai spiegato perché, negativa anche Monte dei Paschi dopo la botta di ieri, meno 2,1%, Popolare Milano meno 1,80%, Mediobanca meno 1,40%, invece bene si è mossa Unicredit, visto l'andamento del settore, più 0,40% Unicredit. Sì, per quello che riguarda Unicredit è soprattutto una ragione tecnica, ci si aspettava che Unicredit dovesse tenere quota 1,5 euro, infatti ha chiuso a 1,543 euro ed è questa un po' la ragione per cui oggi Unicredit si è mossa diversamente rispetto al resto del settore bancario. Per buona parte della giornata aveva tenuto anche Intesa San Paolo, che poi sul finale è arrivata a cedere lo 0,23%. Ancora, abbiamo ancora un minuto scarso prima del GR, molto scarso mi fanno segno dalla regia. Allora, tra i titoli energetici, Eni meno 1,70%, Saipem meno 1,34%, Enel Green Power meno 0,88%. Sì, I titoli energetici hanno pagato un po' il prezzo del petrolio, che è scivolato sotto i $100 al barile dopo la diffusione degli stock di petrolio negli Stati Uniti, che hanno mostrato un ulteriore incremento delle riserve, e questo ovviamente deprime i prezzi e deprime anche un po' le quotazioni azionarie dei titoli legati al petrolio. I migliori peggiori in assoluto: Zucchi più 14,50, Fintel più 12, Neurosoft più 11%, molto sottili, Borgo Sesia più 6,47, peggiori Kerseff meno 6,40, Cape Listed meno 6,16, Ubibank abbiamo detto, Green Vision meno 3,90 e Merck Tecnimont meno 3,36%. Grazie a Guido Marino, Radio Corriere Sole 24 Ore, il GR. E poi parliamo sia di Grecia che di un calcio che ha perso negli ultimi 3 anni 1 miliardo di euro secco quanto a società, ma in compenso nella Serie A il costo dei calciatori di 1,5 miliardi è il più alto costo lavoro di tutte le Serie A europee. Ci risentiamo dopo il GR. E 7 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Attendiamo repliche, anche probabilmente qualche telefonata da parte degli ordini professionali. Noi andiamo avanti dopo aver parlato del libro Il Cappio, e quindi perché gli ordini professionali soffocano l'economia italiana, e aver commentato la borsa. Vorrei passare a uno dei temi classici di questo programma in tema di economia internazionale, ossia quello che sta capitando al debito di un paese che, ripeto, non va assimilato a Irlanda e Portogallo e, se vogliamo, anche Spagna, perché la Grecia, lo scandalo greco nasce dall'aver truccato i conti, non dall'aver imbarcato un deficit improvviso per la crisi, quindi la Grecia è un caso a sé, però in un effetto di nervosismo e di domino nervoso ha chiaramente contaminato anche quelli che sono i rendimenti degli altri, dei titoli di Stato di altri paesi europei. 349-238-6666 per i vostri sms. Grecia di nuovo di attualità, perché ieri sera appunto l'agenzia di rating Moody's ha tagliato il voto alla Grecia da B1 a CAA1, in sostanza si va sotto il livello praticamente di investment grade, e questo non ce lo doveva dire Moody's, perché no, sorrido perché ormai le obbligazioni greche rendono praticamente i titoli di Stato greci rendono a 2 anni 24,6%. Non cercateli, perché questo è il prezzo, diciamo, sul mercato. Non è che la Grecia non si sogna neanche di emettere obbligazioni dovendo pagare il 24,6%, è il prezzo teorico. E così come l'obbligazione greca a 10 anni rende il 16,2%. Allora, interessante vedere che rende di meno quella a 10 anni rispetto a quella a 2 anni, perché vuol dire che sui 2 anni, tecnicamente lo continuiamo a dire, la Grecia è fallita. Sui 10 anni uno non si pone neanche il problema, probabilmente si immagina che il debito verrà ristrutturato, e a quel punto rende quasi 10 punti percentuali in meno. Però sappiamo, l'abbiamo spiegato molte volte, più aumenta il rendimento di un titolo di Stato più è a rischio quel paese, perché più interessi deve pagare il paese per farsi finanziare il suo debito, più è a rischio quel paese. Ecco perché il riferimento in Europa è sempre l'obbligazione di Stato tedesca, che è considerata la più affidabile in assoluto in Europa, nell'area euro. La differenza tra quanto rende l'obbligazione, il titolo di Stato tedesco, e quanto rendono quelli spagnoli e portoghesi e irlandesi, si chiama spread in gergo, è tornata a salire. Tornata a salire su tutti questi paesi. Tra l'altro oggi la Spagna ha collocato obbligazioni sul mercato, buona l'asta, ma il rendimento è salito anche di tanto, dal 3,5% offerto nell'ultima asta, adesso siamo al 4% per i bot spagnoli a 3 anni. Vittorio D'Arold del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Allora, domani c'è un appuntamento importante sulla Grecia, fermo restando che il governo di Atene si è ribellato a questo giudizio, ha detto Moody's si muove sulle voci, non guarda quello che faremo noi. Moody's ha espresso questo abbassamento del voto perché ritiene difficili, anzi leggo testualmente, questa mossa deriva dalle difficoltà crescenti che il governo greco deve affrontare nell'attuare i tagli annunciati e dalle crescenti incertezze sulle prospettive di crescita e da un record negativo sul fronte degli obiettivi di consolidamento dei conti pubblici. In sostanza, dice Moody's, vediamo un po' di difficoltà per essere buoni da parte del governo greco. Che cosa si discuterà domani, anche perché deve arrivare un'altra tranche del prestito europeo alla Grecia? Sì, esattamente. Allora, il mosaico greco è così composto. Domani dovrebbe esserci il via libera da parte della cosiddetta troica, cioè dai tecnici formati da Fondo Monetario, Unione Europea e Banca Centrale Europea, che sono dal 10 maggio ad Atene, a controllare che il piano di rientro sta andando secondo il appunto i desiderata. In realtà abbiamo trovato che la questione non è andata in questi termini, cioè la Grecia non è riuscita, causa anche naturalmente la crisi, è il terzo anno di recessione che i greci vivono, non è riuscita ad abbassare il deficit al 9,4 ed è riuscita al 10,5. Allora è stato sempre un taglio del 5 punti, ma non è sufficiente, quindi vuol dire che nel 2011 non riuscirebbe a raggiungere il deficit del 7,4 e quindi deve fare una manovra aggiuntiva da 6,4 miliardi. Come? Allora si stanno appunto mettendo i dettagli di questa nuova misura di austerità, saranno tagli dei salari ai dipendenti pubblici, probabilmente verranno accorpati delle aziende pubbliche greche e questo vorrà dire tagliare dei posti di lavoro, che è un tabù in Grecia, tagliare posti di lavoro pubblici, è una cosa mai successa prima, e poi privatizzare. Allora, come accadde per il primo piano, c'è stato il via libera per la vendita del 10% della OTE, che è la loro Telecom Grecia. È molto importante perché in realtà la OTE ha delle filiali nei Balcani. Cioè, quando si parla di Grecia bisogna pensare che la Grecia ha, sia dal punto di vista finanziario, sia dal punto di vista delle sue aziende, delle filiali molto ramificate e molto produttive nei Balcani. Addirittura a volte fino alla Polonia, da ultimo le ultime banche. Quindi venderebbe il 10% a chi? Alla Deutsche Telekom, che è già il socio. Questo quindi è il primo passaggio, rimettere a posto i conti e andare avanti con la quinta tranche, altrimenti il 29 giugno non abbiamo i soldi per pagare né gli stipendi né i bond greci in scadenza. Allora, domanda. La Grecia sicuramente deve fare una cura da cavallo, 6 miliardi di manovra correttiva per un paese che ha un PIL che è meno di un decimo di quello italiano, è come se noi dovessimo fare una manovra correttiva da 60 miliardi così, che vorrebbe dire 5 punti di PIL praticamente, vado un po' di meno, comunque 4 punti di PIL per essere più corretti. Detto questo, il problema greco è, sì, per carità, privatizzare, vendere, ma è anche un nero devastante. Cioè, abbiamo letto in apertura i dati sul sommerso in Italia, che vale 270 miliardi di euro, la Grecia ci batte. Cioè l'evasione fiscale e l'economia in nero ha dei fenomeni, li abbiamo anche raccontati con dei colleghi greci, incredibili. Nel ristrutturare una casa, ci raccontava un collega in diretta, non è stata emessa una fattura che fosse una, cioè peggio dell'Italia, ed è già un discreto record. Allora chiedo, se si continua a tagliare posti di lavoro e stipendi in Grecia e non mettono mano all'economia sommersa, quindi all'evasione, il rischio spirale però è molto alto, e cioè tu riduci il potere d'acquisto delle persone, l'economia va in recessione ulteriore, tu hai ancora più difficoltà a ripagare il tuo debito. È la spirale classica di Marx, per chi ha studiato economia. Vittorio. Esattamente, sì, è proprio così. Cioè loro è il terzo anno di recessione profonda, hanno due settori fondamentali che sono appunto l'armatoriale e il turismo. Il turismo purtroppo non è andato bene l'anno scorso perché, come voi sapete, essendo nell'euro, i prezzi non sono, ahimè, competitivi, anzi l'anno scorso hanno perso anche il turismo anglosassone, sia inglese che americano, perché l'euro era più forte sia sulla sterlina sia sul dollaro. Quindi loro hanno avuto una stagione decisamente complicata. come possono uscirne? La questione è che se fossimo in un ipotetico reale area, diciamo, di federale, cioè se l'Europa fosse veramente un'Europa, e oggi Trichet, come voi avrete sicuramente detto, ha detto ci vuole un ministro delle finanze europeo. E questo è un dato importante, perché vuol dire che ormai la crisi greca è una crisi che pone sul tappeto il problema vero, che non c'è coordinamento fiscale. Allora, cosa sarebbe successo? Facciamo l'esempio dell'America, perché forse è quello più semplice. Che se un paese non riesce, uno Stato nel loro caso, la California, per dire un'altra cosa, ci sono state delle situazioni in cui lo Stato centrale spostava delle industrie, la famosa Boeing è stata messa nello Stato di Washington nel lontano, nei primi anni del Novecento. Perché? Perché era un'area a quell'epoca considerata poco sviluppata. La Boeing era naturalmente in quei momenti soprattutto militare, da lì poi però è nata tutta un'infrastruttura e, come voi sapete, la Microsoft non a caso è poco distante appunto da Seattle, appunto in quella zona. Cioè tu dici, cioè, se fosse avremmo dei vantaggi fiscali per la Grecia tali da permettere... Ma ad esempio potrebbe anche essere semplicemente che l'Airbus, che è il nostro, l'aereo europeo che viene costruito parte in Germania, parte in Francia, a Tolone eccetera, dovrebbe essere, che ne so, alcune parti costruite anche in Grecia, così sarebbe un concetto veramente europeo. Cioè, invece aiutare... la povera Grecia cosa fa? Vende olive e aspetta soltanto i turisti. Sì, no, il mio timore è che appunto con queste cure da cavallo tipiche anche del Fondo Monetario Internazionale poi si vada verso una deriva argentina più che di altro genere, perché tu continui a deprimere il potere d'acquisto, la Grecia non si risolleva, continui a fare licenziamenti, ridurre gli stipendi, non combatti il nero, non fai emergere l'economia, e a questo punto vorrei capire quando e se anche i tedeschi si rendono conto che questa spirale va interrotta. È esattamente così, i tedeschi si sono resi conto, ieri c'è stato questo grande apertura di Stark, che è tedesco ed è appunto membro del board, importante membro del board della BCE, che ha detto vogliamo che anche le banche partecipino. Come? Allora faranno sì che quando scadono dei bond, delle obbligazioni greche, le banche le ricomprino. Questo tecnicamente è semplicemente un riacquisto, un rinnovo, quindi non si parla assolutamente di né ristrutturazione, né riprofiling, niente di tutto ciò. Perché? Perché se c'è uno di questi casi per le agenzie di rating, questo vuol dire scattare l'ipotesi CDS. E guardate che i CDS, cioè che sono nati come assicurazioni per i bond, sono, si parla di 5 miliardi di CDS che girano su queste bond greci. Sarebbe una mina vagante con il famoso... Il CDS, lo spieghiamo spesso, è quella polizza assicurativa che ti fai quando compri un'obbligazione di un paese che ritieni a rischio, soprattutto quando è a rischio. E aumenta il premio, aumenta il rischio di questo paese. È chiaro che il CDS, che sono stati all'origine, assieme ad altri strumenti, del crack finanziario di 2 anni fa, quasi 3 ormai, i CDS sono 5 miliardi di polizze assicurative staccate sulle obbligazioni greche, che sono carta che gira come una specie di ortaggio che va molto di moda in questi giorni per via del cosiddetto batterio killer. Grazie Vittorio D'Arolda. Grazie. Adesso a voi. Traffico. E poi parliamo invece dei costi del nostro calcio, mamma mia che brutto tema, perché veramente c'è da arrabbiarsi. 349-238-6666 per i vostri sms. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. C'è chi scrive che i credit default swaps non c'entrano nulla con quella che fu la crisi finanziaria, ma non so che informazioni abbia lei. Che sia nata dai mutui subprime, cioè mutui concessi a chi non poteva ripagarli, è un conto, ma questi mutui sono stati concessi anche perché ci si poteva assicurare sul rischio e lì entra in gioco il CDS, per favore. Un po' più di modestia ogni tanto. Dicevo, il calcio, il buco del calcio, purtroppo ciclicamente in questo paese si torna a parlare del buco della Serie A, mentre divampa in perla lo scandalo sul calcio scommesse, 1,5 miliardi perso dal calcio in 3 anni, inclusa Serie A, Serie B e Lega Pro. 1 miliardo, scusatemi, ho sbagliato, 1 miliardo, allora ci sentiamo meglio. Solo 1 miliardo perso in 3 anni. E chi l'ha perso? In sostanza l'ha perso la Serie A, perché ha un valore della produzione, trattiamola come un settore produttivo, di 2 miliardi l'anno e fa un rosso di 180 milioni l'anno. Perché? Perché pesa moltissimo il costo degli ingaggi, gli stipendi dei giocatori. 1,5 miliardi di euro complessivamente gli stipendi della Serie A è il costo più alto in Europa, costo del lavoro più alto in Europa. La Serie B ha un giro d'affari di quasi 300 milioni di euro l'anno e perde 83 milioni di euro l'anno. La Lega Pro, l'ex Serie C, ha un fatturato di 122 milioni, ne perde 70 milioni l'anno. Oggi su Sole 24 Ore l'inchiesta. Gianni Dragoni, il collega del Sole 24 Ore, ha firmato il commento. Buonasera Gianni, ci senti? Buonasera a tutti, ciao. Ecco, la cosa che più mi ha preoccupato nell'inchiesta del Sole 24 Ore di oggi non è solo il rosso, ma il fatto che voi dite, attenzione, i ricavi della Serie A sono ormai, hanno raggiunto il loro tetto massimo, 2,5 miliardi, quindi o si comprano gli stadi, cioè si fanno stadi di proprietà delle squadre di Serie A, oppure il rosso continuerà, ho capito bene? Sostanzialmente corretto, i ricavi, cioè, sono, diciamo, abbastanza al limite, a meno che non ci siano dei risultati sportivi talmente, diciamo, appetibili per attivare sponsor o altre forme, no, di pubblicità che possano incrementare i ricavi, però nell'attuale situazione anche competitiva è corretto. Ecco, diciamo che i ricavi comunque, che per un totale annuo di circa 2 miliardi di euro, in realtà questo valore, questo monte ricavi, tiene conto anche delle plusvalenze per la vendita di calciatori, il calciomercato, che poi spesso sono plusvalenze all'interno delle stesse squadre di Serie A, tranne quando c'è una vendita all'estero. Quindi i ricavi veri, cioè da diritti televisivi, stadio, biglietti, pubblicità, sponsor, sono circa 1.750 milioni. Questo è il vero valore su cui le squadre si devono misurare, quindi un livello anche più, ancora un po' più basso. Chi consolida queste perdite, come si fa nell'industria? Cioè, se un'impresa lavorasse come fa il mondo del calcio, avrebbe già chiuso da che mo. Ma queste perdite come si fanno a consolidare, cioè poi a essere ripianate in qualche modo? Allora, la via normale, sana, ordinaria dovrebbe essere il ripianamento, cioè un azionista, sì, il padrone che rimette i capitali. Siccome questo è un mondo senza regole, di fatto, cioè formalmente le regole e i controlli ci sarebbero, ma di fatto non ci sono. Qualche volta accade questo per i mecenati come Moratti nell'Inter, che effettivamente ogni anno mette 50, 60, 80 milioni di euro, lo fa anche la Fini di Berlusconi, sono i due più ricchi con il Milan. Però anche queste squadre e anche altre, qualche anno fa soprattutto, hanno fatto delle acrobazie contabili, delle operazioni, diciamo, ai limiti, ma direi oltre le regole contabili, che però sono state tollerate. Ci fu la legge sul cosiddetto salvacalcio del 2003, che consentì di spalmare le perdite, poi c'è stata la cessione dei marchi dei club a se stessi, fatta dalle medesime del salvacalcio, cioè in particolare Inter, Milan, Lazio, Roma e qualche altra, con cui, anziché fare delle ricapitalizzazioni, si sono fatte plusvalenze fittizie, fasulle, per coprire delle perdite. La Covisoc, l'organo di controllo della Federcalcio, e la FIGC hanno chiuso un occhio, perché poi sono composte dal medesimo mondo espresso dal calcio, ma la situazione poi è quella di oggi, quella che ha raccontato il Sole 24 Ore oggi con la bella inchiesta di Marco Bellinazzo. Andiamo bene, proprio bene. La sorella ti sei beccato, Gianni Dragoni, perché insomma... Non, ogni tre anni io e te ci sentiamo per parlare di calcio, il buco non cambia, anzi in questo caso aumenta e viene ripianato da chi ha i soldi come Moratti e Berlusconi in alcuni casi, ma comunque con delle leggi così a settore che fanno inorridire, se pensiamo soprattutto ai settori produttivi in crisi in questo momento, che non ricevono niente di tutto questo. Nel salutarti Gianni ti dico solo che ci consoliamo con la Schiavone, che è arrivata in finale Roland Garros, almeno quello, diciamo, quello ci rende un po' più felici. Grazie al collega del Sole 24 Ore Gianni Dragoni, mentre saluto un altro collega del Sole 24 Ore, Antonello Chierchi. Buonasera Antonello. Lo sto per salutare perché sta per arrivare, domani infatti esce come ogni venerdì la guida del Sole 24 Ore e vorrei capire il tema con Antonello. Antonello, mi senti? Sì, ti sento, buonasera. Buonasera a te. Di cosa vi occupate domani con la guida pratica del Sole 24 Ore? Ci occupiamo di privacy, in particolare delle novità che alla normativa sulla privacy sono state introdotte dal decreto legge sviluppo che è attualmente in via di conversione in Parlamento. Sono novità che riguardano i cittadini, che riguardano anche le imprese e i professionisti, e facciamo un po' il punto su queste novità. che riguardano appunto tutta la nuova legge in materia di privacy. Ce ne dici una, la più eclatante? Sì, sono modifiche che non riguardano l'intero codice della privacy, riguardano ovviamente soltanto una parte, ma per esempio quella per i cittadini, ricordo soltanto che da fine gennaio scorso, dal 31 gennaio scorso, chi non vuole ricevere telefonate commerciali si deve iscrivere in quello che viene chiamato registro delle opposizioni, cioè un registro dove io devo iscrivere il mio numero di telefono se non voglio che quel numero venga utilizzato per ricevere telefonate commerciali, perché mi disturbino al telefono. Ma non dovrebbe essere il contrario, cioè io mi iscrivo un registro se voglio ricevere le telefonate? Era il contrario fino al 31 gennaio. Ma che bello! La normativa, diciamo, le regole sulla privacy prevedevano proprio quello che tu hai detto fino a gennaio scorso, poi è cambiata la prospettiva e adesso devo essere io abbonato, se non voglio essere disturbato, e iscrivermi in questo registro. Con la novità qual è? Quindi il registro per le telefonate esiste dal 31 gennaio, adesso è stato esteso anche questo registro alla posta che normalmente ci troviamo nella cassetta. Quindi anche per la posta della cassetta rete devo iscrivermi io un registro e dire non voglio quella posta. Mi sembra, a quello stesso registro, mi sembra il capovolgimento del buon senso. Comunque, esatto, comunque domani ne sapremo di più con la guida alla privacy, alle nuove regole, le nuove norme sulla privacy del Sole 24 Ore. Grazie a Antonello Chierchi, da Sebastiano Barisoni è veramente tutto. Focus Economia termina qui, noi ci risentiamo domani come sempre dalle 17 in poi. A voi tutti un augurio di buona serata. Radio 24, la passione si sente.